Allora, grazie a tutti di essere qui. Io sono Marco Giovenale e ringrazio innanzitutto il nostro ospite, che è Alberto D'Amico e lo studio Campo Boario, che non solo ospita la mostra In Itinere di Fabrizio Rossi, che è qui e che troverete poi alla fine del nostro incontro nell'altra stanza, potrà essere visitata e rivista per chi l'ha già vista, perché si è inaugurata 2 giorni fa. E non solo quindi ospita questa bellissima mostra, ma anche questo colloquio informale, per cui ci vedete così schierati, ma in realtà siamo pronti a una chiacchierata, perché a una vera e propria conferenza, diciamo così, sulle scritture asemiche, e cioè su quella strana forma di immaginazione della mano e del gesto che lascia dei segni sulla carta o, nel caso di Fabrizio, su altre materie che poi scoprirete per chi non ha ancora visto la mostra, dei segni che hanno un qualche riferimento a alfabeti noti o comunque a una scrittura che può pensarsi traducibile e leggibile, in realtà non lo è, è fantasiosamente legata ad altre idee di significato. Appunto, in qualche maniera il significato scompare all'orizzonte, però lasciando, diciamo così, aleggiare sulla pagina qualche cosa che assomiglia al passaggio comunque del senso linguistico, del senso dei linguaggi che normalmente parliamo e che leggiamo. E a parlarne qui ci sono, cominciando dalla mia sinistra, c'è ovviamente l'autore Fabrizio Rossi, Ada De Pirro, Silvia Bordini e Giuseppe Carrera. Ada De Pirro, Giuseppe Carrera e chi vi parla sono anche gli autori di 3 dei 4 saggi che introducono la mostra attraverso questo libro che si intitola In Itinere, la mostra si intitola così e il libro si intitola così, In Itinere, pratiche di scrittura asemica, che trovate in fondo, chi vuole può acquistarlo tra l'altro a un prezzo un po', diciamo, speciale, scontato oggi in occasione appunto di questo incontro. E non solo riproduce nella sua interezza la mostra, con delle fotografie tra l'altro eccellenti, ma appunto ospita anche 4 modi di osservare la scrittura semica. E uno degli autori dei saggi purtroppo non è potuto essere presente, è Pasquale Polidori, perché purtroppo è impegnato per lavoro a Milano. E gli altri 3 sono appunto Ada De Pirro, Giuseppe Carrera e io. E un po' partendo forse da questa serie di pagine che sono sulla carta, ma che parlano di qualcosa che sulla carta non è, perché non è sulla carta, diciamo, sulle mappe dei linguaggi noti, perché la scrittura semica elettivamente esce dall'idea di linguaggio, pur standoci con un piede dentro, e esce dalla carta anche perché le scritture che Fabrizio ha messo nero su bianco o nero su grigio o nero su altri tipi di tinte sono delle scritture appunto che linguisticamente fanno riferimento anche a delle, come dire, dei precedenti storici, il glagolitico, una scrittura corsiva romana. Ma in realtà sono e sarebbero anche per dei romani illeggibili. Io forse partirei proprio da Fabrizio, se la sente più che altro di dirci appunto da cosa è partito per questo viaggio, per questo itinerario. Il libro si intitola In Itinere. Perché si intitola In Itinere? Perché questa pratica, almeno ora io vivo della scrittura asemica, è strettamente connessa al camminare. Quindi io cammino molto, mi piace moltissimo camminare, mi piace camminare in montagna particolarmente, ma non solo, in montagna ha qualcosa in più per me, nei boschi eccetera eccetera, e incontro delle pietre e in qualche modo mi chiamano, diciamo così, e ci faccio dei segni sopra. Ma in realtà è cominciata, adesso raccontando in maniera un po' pedestre, appunto, e forse è cominciata, mi sono reso conto oggi, che nella primissima edizione di un libro che ho scritto che si chiama Caratteri e comunicazione visiva, che è un manuale di tipografia, quindi tutto ciò che riguarda i caratteri particolarmente per la stampa o per il video, che è la materia che insegno, di cui mi occupo da tanti anni, all'inizio mettevo una citazione di Barthes, che a sua volta raccontava un aneddoto brevissimo a proposito di Maupassant. Maupassant che detestava la Torre Eiffel e nonostante ciò andava spessissimo a mangiare al ristorante della Torre Eiffel. Perché? Perché era l'unico posto di Parigi in cui riusciva a non vederla. E sotto questa breve epigrafe che nel mio libro c'era un esempio di quella che Barthes chiamava controscrittura, che era a mio avviso a tutti gli effetti una scrittura sola. E forse è cominciato proprio da lì, quindi dal 2007 addirittura, questa storia. Un po' silente, un po' intanto riaffiorava in vari modi, fin quando, per colpa di Marco Giovenale, per colpa tua, mi è capitato di pubblicare prima la sua enciclopedia Asetica, che è un primo volume, che è una raccolta di sue opere con bellissimi scritti introduttivi, e poi il suo, scusate perché ho dimenticato anch'io di fare questa operazione, ecco, e poi il suo testo Asemix, senso senza significato, che è anche un esercizio di dizione, no? Se riesce a dirlo senza inciampare. E da lì si è riaccesa questa fiamma, questo desiderio di praticare la scrittura semica, che per me, vi dico con grande franchezza, è una sorta di via di liberazione proprio da quegli studi di tipografia e calligrafia che potete immaginare quanto possano essere normati, disciplinati fino allo stremo proprio. Ecco, è andata così. E quindi le passeggiate si sono incontrate con questa pratica? Sì, no? Sì. Se a proposito, appunto, sempre partendo in qualche maniera dalla mostra, quindi e partendo dal tema del movimento della passeggiata, diciamo, forse il testo che più frontalmente affronta, trova, insomma, fa oggetto, stringe il fuoco su questi due temi, è quello di Ada De Pirro, e quindi darei a te la parola. Va bene. Allora, dunque, nella mia lettura delle opere di Fabrizio, appunto, mi sembrava, e anche parlando effettivamente anche con lui prima di scrivere, mi è venuto subito alla mente, diciamo, tre momenti del suo operare, cioè che sono il camminare, il raccogliere e il segnare. Quindi mi sono molto concentrata perché praticamente proprio su questi tre aspetti, proprio perché è attraverso la camminata, il passo, questo andare un po' nomadico, insomma, si può anche un po' definire, no? Andare a cercare dentro luoghi che sono naturali oppure anche cittadini, perché non so se avete visto la mostra giù, effettivamente ci sono materiali molto eterogenei, alcuni che ci parlano proprio di sentieri di montagna, dove ci sono appunto delle pietre piuttosto scabre, piuttosto segnate già di loro. Altre invece dei ciottoli che sono più di fiume e quindi ci fanno pensare a un lavoro dell'acqua, no? che può levigare la pietra. E altri invece che sono appunto dei semplici sanpietrini. Noi siamo a Roma ed è un materiale effettivamente che conosciamo piuttosto bene. E poi sempre, diciamo, per quanto riguarda la storia invece, ci sono dei cocci, cioè dei frammenti di argilla, e anche, diciamo che è un po' un un unicum in tutta la mostra, e c'è anche una grande testa di gesso che però rappresenta appunto non a caso un imperatore romano. Mi sono dimenticata tra i materiali naturali anche delle foglie, che comunque sono cercate in qualche modo e diciamo trovate dall'artista proprio per essere poi in qualche modo catturate dalla sua azione. Quindi lui le depone dentro, cioè depone tutto questo. Mi è venuto da pensare appunto che tutti questi materiali hanno bisogno di essere accolti, e quindi mi sono immaginata uno zaino e poi rielaborati. Ecco, volevo prima di tutto fare un piccolo accenno anche a un'altra suggestione. Prima appunto Marco ha detto che Fabrizio non lavora sui materiali soliti. No, effettivamente no, perché sono tutti materiali tridimensionali, in qualche modo, a parte magari le foglie o forse la stola che avvolge Adriano. Ma mi sembra di aver capito, di percepito che comunque questi materiali sono sì materiali, diciamo, tridimensionali, ma che poi vengono usati anche come se fossero dei fogli, in verità, con un loro recto e un loro verso. Io non so se questa suggestione, quindi questo rimandare anche forse alla sua attività di grafico, effettivamente magari è qualcosa che ha funzionato, questo magari possiamo poi parlarne dopo. Comunque, su questo incedere, su questo camminare, volevo riportarvi una suggestione molto interessante. L'altro giorno, cioè, allora, nell'ambito della mostra che c'è a Palazzo delle Esposizioni sull'arte nomadica di Francesco Clemente, ho assistito a un dibattito veramente molto interessante e nutriente, come si può dire, tra Paolo Pecere e Felice Cimatti, e parlavano di nomadismo. Una cosa che mi ha molto, diciamo, interessato di Felice Cimatti, che appunto parla del nomadizzarsi, cioè del doversi nomadizzare in qualche modo per avviare un percorso, possiamo dire, di conoscenza. Lui tra l'altro usa molto la fotografia per catturare, anche per avere poi uno sguardo opposto di quello che si può avere. Bene, quello che lui ha messo molto in evidenza è questo rapporto con Ernesto De Martino, che ha parlato dei suoi viaggi nel sud proprio per cercare di recuperare quella crisi del mondo contadino che attraverso diciamo, la sua lettura anche nomadica, anche insomma di passeggiata e di attraversamento, vuole essere recuperato. E quindi ha detto una cosa che secondo me può entrare anche nel discorso, nel rapporto tra il camminare, raccogliere e segnare, e dice che lui è molto interessato al momento della crisi e non a quello della costruzione del senso. E mi è sembrato veramente illuminante questa cosa, perché andare a camminare per cercare di ricostruire in qualche modo qualcosa che si è perduto veramente ha molto a che fare anche appunto con l'assenza oramai accertata del significato di alcune operazioni o di una certa realtà culturale, però per recuperare il senso, ed è un po' lo schema o comunque diciamo una finalità della scrittura semica che appunto Fabrizio applica a questi materiali. Allora, quindi camminare per poi raccogliere, cioè lui non credo che Fabrizio cammini solo per raccogliere questi materiali, però gli capitano e magari gli va anche un po' incontro, da quello che ho capito. E quindi in questo camminare, in questo percorso, praticamente è come se veramente creasse un po' anche delle geografie, possiamo dire, no? Di percorsi che poi attraversano vari luoghi, che non sono mai luoghi banali per lui. Ad esempio, appunto, perché ogni reperto ha un significato intrinseco nel suo percorso, e infatti le scritture che vengono applicate sopra sono segnate, ma con riferimenti al luogo stesso, l'Ortgeist del posto. Cioè praticamente, ad esempio, il Monte Argentario che ricorda la scrittura di uno zio, oppure l'isola di Corciula che ricorda il glagolitico, non è primitivo assolutamente, è del IX secolo d.C., ma oppure la scrittura privata romana, il ballo di Adriano, ritrovare questi documenti, eccetera. Per cui questa scrittura effettivamente in qualche modo parla di qualcosa di perduto, da quello che si può dedurre, però poi acquista il suo senso in questo lavoro di memorizzazione su questi stessi materiali. Non so se se, insomma, se il discorso è chiaro, però insomma mi sembra che poi l'operazione di Fabrizio sia un pochino questa. Poi volevo fare una piccola riflessione sul discorso del segnare, no? Il segnare, il vocabolo italiano viene da segno, no? E il latino signum, che vuol dire intaglio, che poi anche da un antico verbo che secere, che poi diventa secare. Insomma, volevo fare questo ragionamento. Allora, le pietre e alcuni materiali che vengono utilizzati da Fabrizio sono già segnati di loro molte volte, e quindi lui le ripercorre e magari fa altre cose sopra. Ma questa operazione mi ha fatto tanto mettere in connessione anche quello che dice Emilio Villa rispetto all'uso dell'uomo preistorico sulla pietra. Cioè, lui parla praticamente di queste pietre come se fossero segnate da queste primitive incisioni come un atto sacrificale. E a me ha colpito anche molto questo, diciamo, connessione che si può creare tra il segnare e in qualche modo il sacrificare, che ha sempre qualcosa di effettivamente legato al sacro, comunque a una diciamo connessione che noi possiamo avere attraverso i nostri gesti, i nostri segni, appunto su quello che ci circonda, sui materiali che ci circondano. Lancio queste suggestioni. A me. Silvia Bordini. Ok, allora io di questa scrittura semica ne ho sentito parlare molte volte da te soprattutto, e mi ha sempre affascinato, ma non l'ho mai capita, proprio perché è asemica. E per cui adesso vi butterò lì alcuni argomenti che mi sono venuti in mente. E allora, il primo, che si ricollega un po', insomma, è il fatto che la scrittura asemica, essendo scrittura, rimanda per somiglianza, diciamo, la scrittura su un foglio, no? Invece in questo caso abbiamo la scrittura sulle pietre. Le pietre sono tridimensionali e sono un materiale solido che proviene dalla natura, per cui questo può essere un altro collegamento, no? Infatti l'hai collegato al camminare, al guardare, al raccogliere, e comunque si può anche collegare appunto alla manipolazione della materia, che è uno degli elementi importanti del fare arte, anche in questo caso, perché qui, oltre che di scrittura asemica, si tratta di arte, no? Infatti questi sassi asemici sono esposti in una mostra. Questa mostra è concepita, tra l'altro, in una maniera particolare, come una specie di installazione in cui ogni oggetto sasso asemico, ogni scrittura asemica, ha la sua collocazione, anche la sua luce, il suo punto di vista. Quindi il termine scrittura, insomma, si allarga in una dimensione più ampia, anche di immaginazione più ampia. E a questo proposito mi viene in mente che ho letto tempo fa un libro che si chiama Cosa vediamo quando leggiamo? E è un libro molto interessante di Peter Mendelssohn, e che rimanda all'immaginazione, no? Sostanzialmente, con vari esempi, dice: noi quando leggiamo, oltre alle parole, al racconto, all'analisi, a quello, insomma, che ci arriva nella mente, ci arriva soprattutto lo stimolo a immaginare. E in questo senso mi pare che le pietre asemiche, già la scrittura asemica infatti porta a immaginare moltissimo, perché non avendo un significato preciso ci porta a girare intorno a un'immaginazione che può essere molto ampia, e ancora di più quando si collega appunto alla materia viva, in un certo senso, che è quella dei sassi. Poi i sassi mi hanno fatto pensare a tanti artisti, più che alla scrittura, no? A tanti artisti che adoperano i sassi e a tante anche citazioni, avevo preparato una citazione, insomma, ho riletto, di Cennini, che dice: se vuoi dipingere una montagna, non ve la leggo tanto, prendi un sasso che sia scoglioso, no? Che non sia... dove sta? Sì, pietre grandi e che siano scogliose e non pulite, dice, e disegnale, ritraile, così fai un paesaggio alla montagna. Un altro riferimento si può avere, per esempio, tra questi classici, no, molto noti, da Leonardo, che non parla di sassi, ma di muri e pietre, muri fatti di pietre, e che sono percorsi da fessure. Dice, buttaci sopra una spugna con del colore e vedrai apparire... A proposito di immaginazione, vedrai apparire tantissime, ecco, potrai lì vedere similitudini di diversi paesi ornati di montagne, fiumi, sassi, alberi, pianure grandi, valli e colli in diversi modi, eccetera, eccetera. Insomma, tra l'altro Leonardo fa sempre un modo di scrivere bellissime. Bellissimo. Un'altra cosa che mi era venuta in mente, scusate, io intanto balbetto, sono un po' asemica. Un'altra cosa che mi era venuta in mente, appunto, tra gli artisti, non soltanto questi elementi di fonti, di artisti che parlano dei sassi, ma i grandi sassi adoperati, per esempio, nell'ambito della Art in Nature, da Richard Long e tanti altri artisti, anche lì potrebbe essere, non sono sassi scritti, ma sono sempre sassi adoperati dagli artisti. E poi tantissimi altri, non so se... per esempio, anche i sassi di polistirolo espanso di Pietro Gilardi, che sono similissimi ai sassi naturali, dei sassi di fiume arrotondati, però sono artificiali, sono un discorso sulla natura, sono un discorso sul fare, anche un discorso in qualche modo sull'immaginazione che ci viene in questo caso non dalla scrittura ma dall'oggetto. E Smithson con la sua spirale del 1970, che è fatta di sassi, portati lì, insomma, tonnellate di sassi. E altre cose, per esempio Mario Trevi, che è uno psicanalista, che il figlio racconta in un libro che parla di suo padre, racconta che stava sempre a lucidare sassi, raccoglieva sassi e li lucidava, no? Quindi c'è questo elemento di, non so come dire, sassità, di sassi che vanno da tutte le parti. E un'altra cosa che mi veniva in mente, però più complessa, è paragonare, collegare in qualche modo la asemicità alla inudibilità, che è un altro di questi concetti sicuramente molto complessi, che comunque adoperano alcuni musicisti, diciamo, d'avanguardia, credo perlomeno dagli anni 60, se non prima, no? E lo dico perché appunto tempo fa sono stata in contatto con un gruppo che praticava proprio in musica l'inaudibile, che è un concetto affascinante quanto sicuramente è difficile. E un'altra cosa su cui volevo... sì, questo dell'asemico è un po' come un silenzio, no? È una parola senza oralità, quindi una musica senza udibilità, insomma, mi veniva da fare... queste associazioni forse un po' strane, che comunque, appunto, visto che leggendo un libro immaginiamo qualcosa, anche guardando una scrittura semica e poi sui sassi ci viene da immaginare varie cose. E una cosa che volevo sottolineare è la bellezza del catalogo, perché la mostra è concepita in una maniera molto precisa. Credo che tutti i sassi sono stati messi su quel tavolo, illuminati in quel modo, non a caso, no, ma con un criterio. E mi ha colpito nel catalogo, dunque, un po' anche la ricchezza di citazioni degli scritti. Per una scrittura semica che non ha significato, poi ho visto citato Siccareri, poi Emilio Villa, Manganelli e tanti altri, per cui questo, per questo mi è venuto da citare Cennino, Leonardo e altri che poi non ho detto. Comunque il catalogo è molto bello, stampato benissimo, complimenti alla casa editrice. E nelle fotografie e nell'impaginato, tutta la mostra, tutto il concetto della mostra si risuona sicuramente, ma diventa anche un'altra cosa. E questo mi riporta al fatto che anche il libro è un oggetto, no? È spesso un oggetto artistico come questo, che però non è concepito come un libro d'arte. Lo è un po' di sguincio, perché il libro d'arte dovrebbe avere solo le immagini, no? Però volevo appunto puntualizzare questa trasformazione che la scrittura già ha sui sassi invece che sul foglio, eccetera, eccetera, e poi attraverso la fotografia diventa ancora un'altra immagine e sicuramente un'altra anche immaginazione. Verissime, assolutamente. Giuseppe. Sì, allora, sì, io vi racconto un po' l'itinerario dei pensieri legati chiaramente prima ad aver visto immagini, avendo dovuto scrivere un testo, e poi la mostra due giorni fa. La prima impressione, il primo pensiero nell'operazione che è stata compiuta è quella della passeggiata come allontanamento. Cioè, quando uno comincia e fa questo tipo di passeggiate è stanco, cioè è stanco del mondo, è stanco della lingua e delle comunicazioni che ha. Per cui immaginavo che il risultato poi sia un andare a cercare la fine di tutto, la distruzione di tutto, cioè di quello che è il mondo codificato. Per cui la prima immagine legata a questi frammenti, a questi sassi, è una passeggiata, cioè quella che si chiama il Wanderer, il Flaner, una passeggiata dolente, cioè nel mondo che, ricordatevelo, ha come potere il linguaggio, cioè il potere del mondo è il potere del linguaggio. Possiamo prendere adesso ancora meglio, apriamo internet, apriamo la televisione, apriamo qualsiasi cosa, e dunque la narrazione del mondo, e lo dico in maniera un po' forse brutale, però per farmi intendere, la narrazione del mondo è la narrazione molto precisa ogni giorno del Lager, dal punto di vista di come le cose accadono. Gli accadimenti del mondo, la narrazione del mondo, non solo sono continui ordini che vengono presentati come delle opinioni, dei suggerimenti, delle soluzioni, in realtà è solo esercizio di potere. E dunque in questa narrazione ho immaginato l'allontanamento verso il bosco, verso la montagna. Cioè ho immaginato proprio un moto naturale che è quello di andarsene, di uscire. Me ne vado. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è andare con un desiderio. Cosa immaginiamo quando abbiamo la fortuna di non saper leggere? Cioè proprio il contrario. no, la fortuna di saper leggere, la fortuna di non saper leggere, cioè di non decriptare le scritture, come se ci aggirassimo, come spesso ci accade in un museo archeologico, dove vediamo tanti frammenti con tante scritture non decriptabili. Per noi abbiamo una grande fortuna di non conoscerle, perché altrimenti avremmo un'elencazione probabilmente di uno scarico di navi per quanto riguarda il commercio degli oli, o peggio ancora un accordo sui prigionieri o sui confini o un patto di scambio di militari, eccetera. Dunque è quasi una fortuna da questo punto di vista che non sappiamo leggere, e dunque l'insignificanza, l'indecifrabilità ci permette una cosa magnifica che sperimentiamo tutti, di poter camminare ad esempio per Roma con una grande fortuna, sono solo macerie. E questa è una grande fortuna, perché credo che una delle vergogne dell'umanità sia stata l'esistenza dell'impero romano, cioè nel senso, no, in questa ottica di allontanarci verso il bosco, l'impero romano, diceva Mirella Bentivoglio, sono le SS del loro tempo, al loro tempo. Per cui stiamo parlando di un moto molto radicale, secondo me, iniziale, l'allontanamento e l'allontanamento dal mondo e dalla narrazione. Un'altra cosa, secondo me, in queste pietre e in questi graffiti che vengono in un certo senso resi, come invito per noi, indecifrabili. Ma il privilegio è non decifrarli, il privilegio è essere nella non decifrabilità del messaggio. Mi viene sempre in mente, non ho citato perché mi sembrava troppo classico, lo utilizzo qui, non so se lo ricordate, probabilmente è un ricordo scolastico, c'è un momento nell'Orlando Furioso, fantastico, chiaramente solo Ariosto se lo poteva inventare, dove Orlando è dolente perché sta cercando Angelica, sta cercando la sua felicità. Ovviamente è convinto che Angelica lo ami. Fino a quando non decripterà la realtà, può illudersi che Angelica lo ami. E a un certo punto capita in un luogo meraviglioso, Ameno, dove ci sono scritte sugli alberi, ma soprattutto c'è una grotta piena di scritte. Allora, noi sappiamo che Angelica e Medoro, lei si è messa con un altro e si è innamorata di un altro, Medoro, in questa grotta hanno scritto: qui ci siamo baciati per la prima volta, qui sento che lui è il mio unico amore. Dunque l'augurio per noi è che Orlando non sappia leggere. Se sapesse leggere è drammatico. Abbiamo un vantaggio, ci dice all'inizio Ariosto, sono scritte in arabo, e noi diciamo bene, bene, attraverserà questo luogo ameno e potrà continuare la sua passeggiata, perché se sai leggere la passeggiata non la fai più. La sfortuna vuole che sappia molto bene l'arabo. Perché sa bene l'arabo? Perché gli è servito come militare, per potersi insinuare nel campo nemico, per poter fare degli assalti, per poter fare dello spionaggio. Lo parla talmente bene che è entrato addirittura a Gerusalemme occupata facendosi passare per un arabo. Questo privilegio, o questo privilegio di potere, privilegio di conoscere una lingua, sancirà la sua follia. Perché? Perché comincia la lettura. La lettura, se vi ricordate all'inizio, vi legge qui Angelica ha tra le sue braccia il suo Medoro, e lui dice: ah, non sapevo che mi chiamasse Medoro, cioè che avesse il soprannome di Medoro, no? Sfuggire alla lingua. E poi certo, quando vede la scrittura di Medoro che dice: qui ho giaciuto abbracciato Angelica, capisce che le cose non possono più andare. Nel momento in cui decripta la scrittura ha solo una soluzione: impazzire per fuggire al dolore. Direi che questa è un po' la strada, cioè se noi fossimo in grado di decriptare le scritture avremo la stessa sorte di Orlando. E dunque la via per il non impazzimento, e forse queste pietre hanno un valore terapeutico, come ha accennato anche Fabrizio parlando di queste passeggiate, permettono un pensiero più o meno consolatorio. E io credo che sia una delle radici della scrittura semica distruggere radicalmente l'alfabeto, la scrittura, la comunicazione, la comprensione, lo statuto militare terroristico della lingua. Chi ha sentito me parlare della scrittura semica sa che per me inizia con la prima elementare, sono gli anni della galera, della scuola, l'insegnamento, la lettura, credo che faccia tutto parte di un sistema. Uso una frase, mi permetto di usare una frase: tutte le informazioni che riceviamo sono solo ordini a cui dobbiamo ubbidire, o meglio, dobbiamo imparare a ubbidire a questi ordini. Deleuze diceva, faceva un esempio molto bello, anche lui abbastanza radicale, in una sua conferenza dice: una maestra chiede all'alunno quanto fa 2 più 2? E l'alunno risponde 4. E lui per un certo punto si ferma, si rivolge agli studenti e dice: è un'informazione o un ordine? Questa è un'informazione o un ordine? Ecco, tutti gli studenti un po' agghiacciati, perché all'improvviso si accorgono che tutto quello che hanno imparato, tutto quello che hanno appreso, fa parte di un sistema di ordini. Anche se uno potrebbe dire, vabbè, 2 più 2 fa 4. No, in realtà è proprio questo il problema, in questo senso. Allora, immaginate, quando andrete a rivedere o a vedere la mostra, che c'è questa grande fortuna, questi sassi, queste scritture, ci danno una promessa. Tutto sarà macerie e ruderi, e tutto risulterà incomprensibile. Non avremo più le chiavi di lettura per poter leggere, il che leggere significa quello che abbiamo detto, poter far parte di un sistema di ubbidienza e di ordine. Chiudo con un'immagine che non ricordo più in quale passaggio avevo letto di Marco Giovenale, dato che la scrittura semica è un fenomeno molto da internet, cioè di rete. Marco Giovenale un giorno ha scritto che immagina che tutti questi, che in tutte le parti del mondo scrivono senza senso, cioè scrivono senza che ci sia nessun senso, sono come, faccio un paragone in teologia, le suore, il mondo si regge perché ci sono le suore di clausura che pregano, cioè se non ci fossero le suore di clausura in tutto il mondo che pregano, il mondo non ci sarebbe più, cioè non riuscirebbe più a sostenersi. Ecco, immaginare qua che lui ha questa immaginazione che tutti questi che fanno queste scritture, questa follia totale, in realtà piano piano stanno operando, forse più o meno disperatamente, perché il mondo finalmente come senso finisca, cioè si disgrechi, non sia più insieme e possa l'insignificanza attecchire dappertutto, anche solo come esercizio per un attimo il generatore. Queste sono un po' le idee che mi sono venute nel parlare. Infatti ho usato l'espressione allontanarsi verso il bosco o avere le scarpe infangate, cioè immaginare l'autore che lo rincontri, Fabrizio, nella vita di tutti i giorni è ritornato con un particolare che ha le scarpe ridotte male e con un segno che la spia è stato lontano, cioè si allontana, opera delle forme di allontanamento. E queste forme di allontanamento, dunque le pietre, la passeggiata, mi piace molto, mi piace l'idea di un uomo come tutti noi che a un certo punto non ce la fa più e va verso alcune distanze. In the woods, nel bosco. Che è un immaginario che ha una lunga tradizione letteraria, artistica e evidentemente quindi un'esigenza di lunga durata. E io vi ringrazio e aggiungo soltanto, sperando di essere quanto più breve possibile, che nel quadro generale del significare e del tracciare segni della specie umana, il discorso del significare, quindi del dare un significato ai segni che si tracciano, è lungo. E addirittura trovavo in un articolo di diverso tempo fa, che purtroppo non posso citare perché non l'ho ritrovato recentemente, una ipotesi che facevano alcuni scienziati che a proposito di un ritrovamento di un osso piatto allungato, su cui erano state tracciate delle linee ritmicamente, quindi con una sorta di intenzione significante, che risaleva però, data la datazione del radiocarbonio, a 100.000 anni fa, quindi ovviamente molto molto indietro rispetto alle ipotesi di come dire, di segni significanti tracciati dalla nostra specie. Io non mi sono spinto così lontano quando ho scritto per il catalogo, il libro anzi, in itinere, perché insomma l'occasione primaria e più importante e principale è sicuramente questa mostra. Però questo è un catalogo che diciamo porta questo progetto di Fabrizio Rossi anche avanti, anche verso prossime ulteriori installazioni. Mi sono un po' concentrato su quello che a me ha colpito moltissimo quando l'ho letto, cioè una ventina d'anni fa. È un saggio uscito nel 2002 per un volume di Bruno Mondadori sulle origini della scrittura e ovviamente tutto o quasi tutto concentrato sulla vicenda dei Sumeri, e un saggio in particolare di Denise Schmand-Besserat, questa studiosa, che aveva ricostruito in maniera insomma definitiva, poi alla fin fine quando si studia storia della scrittura un po' si fa sempre riferimento a questo saggio, in cui appunto si dice che alle origini tenere memoria, tenere a mente e registrare delle transazioni commerciali si utilizzavano degli oggetti fisici, cioè una misura di grano era segnata da un cilindretto, per esempio. Due misure di grano erano due cilindretti e questi oggetti, una pecora poteva essere una sfera e via così, e questi oggetti chiamati token in inglese venivano sigillati per sigillare l'accordo all'interno di una bolla di creta. E queste bullae venivano poi chiuse e rimanevano a imperitura memoria di che cosa era accaduto tra i due contraenti, chi aveva venduto cosa a chi. E questo sistema di registrazione della realtà tridimensionale, quindi la registrazione di una realtà tridimensionale fatta attraverso oggetti con corrispondenza 1-1, è durata per diverse centinaia di anni, finché qualcuno ha pensato bene di interrogarsi sul contenuto delle bulle, perché sì, io metto degli oggetti dentro queste sfere, ma che cosa c'è dentro la sfera nel momento in cui io non la posso aprire? E quindi si sono iniziati a segnare i contenuti, cioè gli oggetti fisici, i triangoli, i parallelepipedi, le sfere, i cilindretti, venivano in qualche maniera riprodotti anche sulla superficie. Finché questa operazione è diventata sostanzialmente, è stata diciamo così, ricoperta da un sentimento fortissimo, evidentemente socialmente condiviso, di ridondanza. Perché riprodurre la realtà in oggetti piccoli, chiuderli in una bolla e riprodurre di nuovo, segnare diciamo un'altra traccia che anch'essa a sua volta 1-1 riproduca ciò che c'è dentro. A un certo punto, all'altezza più o meno di 3300 anni prima della nascita di Cristo, c'è stata una sorta di schiacciamento. La bolla è scoppiata, sostanzialmente. E si è iniziato a scrivere soltanto direttamente i segni che corrispondevano in questo modo agli oggetti scambiati e venduti. In questo modo sono nate le tavolette di Creta che noi conosciamo e che sono poi all'origine della scrittura, che appunto attengono alla civiltà prima sumerica e poi insomma con le varie trasformazioni e i vari innesti e arrivi di altri popoli, che poi noi consideriamo appunto come diciamo il punto di svolta, il punto di inizio della storia vera e propria. Noi la scriviamo con la S maiuscola, poi sappiamo e capiamo perfettamente che questa storia è una storia estremamente triviale, no? Legato a commerci, legati a guerre, a battaglie, a maledizioni e a tutta una serie di cose, anche non appunto tutt'altro che piacevoli. La cosa che appunto a me ha colpito è stata questa scomparsa della terza dimensione, dello spazio, che ingenuamente voleva riprodurre la terza dimensione della realtà, e quindi dei commerci, della realtà, degli uomini che scambiano le loro merci, e quindi lo sgretolamento di questa realtà in segno però significante, super significante, cioè non è possibile segnare una riga senza che questo corrisponda matematicamente a una merce scambiata o venduta, un'anfora di vino piuttosto che qualsiasi altra cosa. Ora, questa Questa operazione che poi viene, arriva a noi, e arriva a noi nelle forme poi alfabetiche, eccetera, ha avuto bisogno di circa 5.000 anni, quindi dal 3.300 a.C. fino al XX secolo, per liberarsi da questa corrispondenza. Poi, cioè per sciogliersi dal significato, per avere il coraggio di staccare anche questa ulteriore... questo ulteriore legame, questa ulteriore servitù nei confronti del significato. E perché? Perché la scrittura semica ha una storia di circa un secolo, grosso modo. Allora, detto molto in breve, nel 1997 due autori statunitensi, John Byrum e Jim Leftwich, e purtroppo Jim Leftwich è scomparso da poche settimane, hanno si scambiavano dei testi e uno di questi testi aveva fatto veramente breccia nell'immaginario di John Byrum, un testo di Jim Leftwich, tanto da fargli scrivere in coda una cartolina che gli mandava: ma se continuiamo così, se continui così con questa complessità, con questa difficoltà di scrittura, arriverai a fare una scrittura asemica. Asemic writing. Asemic nel vocabolario inglese fino ad allora e poi anche per parecchi anni successivamente era sostanzialmente una patologia, una malattia. Cioè chi è affetto da asemia è sostanzialmente incapace di esprimersi. Non riesce a tradurre in segni che siano verbali ma anche gestuali le proprie emozioni e le proprie esigenze. Quindi è una patologia molto grave che credo sia anche a confine con una difficoltà neurologica, quindi organica, seria. E quindi buona parte del contesto artistico statunitense per un periodo, un nome tra questi Ron Silliman, si è anche... diciamo non battuto, però insomma era abbastanza perplesso sulla opportunità di usare il termine asemico per questo tipo di scrittura, finché poi in realtà ha preso piede forse grazie anche a internet, grazie al grande lavoro di diffusione di un artista australiano che si chiama Tim Gaze e un altro statunitense che si chiama Michael Jacobson, con riviste, contatti in tutto il mondo. E come appunto accennava prima Giuseppe, è sostanzialmente quasi impossibile ormai mappare tutto ciò che la scrittura asemica ha significato in termini e significa tuttora in termini di espansione e produzione di materiali un po' in tutto il mondo. In questo momento in cui parliamo si sta annunciando una mostra a Belo Horizonte, per dire, in Brasile. Molte ce ne sono state e altre ce ne saranno, un po' in tutto il mondo. Una ingenuità perdonabile dei nostri amici statunitensi è stata quella di pensare che asemic writing fosse una realtà nata appunto alla fine degli anni 90 e che esplodesse, e sicuramente esplosa senz'altro, in termini di comunicazione poi nei primi 10 anni del XXI secolo. Ma in realtà, se noi andiamo indietro nel corso del Novecento, troviamo moltissimi nomi e tante nazionalità diverse, in tanti paesi diversi, che hanno fatto esattamente la stessa cosa, a volte non chiamando la scrittura semica, però sicuramente facendo questo. E io qui, mentre chiacchieravamo, mi sono fatto un'autopromemoria per dire: Arturo Martini, Henri Michaux, Max Ernst, Bruno Munari, Mirta Termisache, Leon Ferrari, Irma Blank, Tommaso Binga, Luigi Serafini, poi nel 1978 crea, 78-79, e nel 1980 pubblica con Franco Maria Ricci lo straordinario Codex Serafinianus, che è un libro meraviglioso, un'enciclopedia dell'impossibile, dove una sorta di mondo alieno viene annotato con una grafia che è totalmente incomprensibile, che è un po' una scrittura asemica. Quindi parliamo di almeno 20 anni prima della data del 1997, che prima indicavamo come, insomma, no, così centrale per questo percorso. In realtà, se pensiamo agli anni 70, troviamo che nello stesso anno, lo stesso mese addirittura, 1978 se non sbaglio, una mostra di Bianca Menna a Roma e una mostra di Irma Blank a Milano vengono entrambe diciamo messe sotto l'espressione scrittura asemantica. Quindi questa realtà grazie al critico d'arte Gillo Dorfles. E è di questi mesi recenti una serie di studi di Luigi Di Cicco, che è qui presente, che ha retrodatato ancora l'uso dell'espressione semantico-semantica, perché lo trovate, adesso l'ho pubblicato sul mio sito, poi magari chi è interessato gli dico dove. Gillo Dorfles, in occasione di, in almeno due occasioni, ma poi in tante altre occasioni, parlando di una nuvola di altri autori, soprattutto nei confronti di Giuseppe Capograssi, che tutti ricordiamo, no, per il suo simbolo, la sua famosa forchetta, ecco, ha usato l'espressione proprio di simboli asemantici, di segni asemantici. E, quindi diciamo che questa, come dire, questa storia della disintegrazione del significato, dopo la sua fissazione invece estremamente rigida, estremamente quasi violenta, ecco, quasi da sacrificio, come potrebbe dire Emilio Villa, che parte da più di 3000 anni avanti Cristo, inizia a farsi leggera, ad alleggerirsi, anche attecchendo e attaccandosi a delle pietre, cioè delle cose più pesanti che possiamo immaginare, soltanto che non sono più delle bulle, sono delle pietre piene, dentro non c'è nulla, e tutto questo in qualche maniera ha anche a che fare forse con la grande, come dire, illusione umana di tracciare dei segni che siano significanti. Ecco, in realtà è proprio la definitiva pietra tombale, se vogliamo, della illusione umana di produrre cose che restino, che siano significanti. Forse non è una distruzione del senso, ma è sicuramente una distruzione del significato, ed ha a che fare molto probabilmente con qualcosa che temiamo e che però in qualche maniera non possiamo non continuare a ripetere a noi stessi. Con questo io pensavo appunto, è così, no, di lasciare ancora a noi... Ah sì, no, volevo solo, scusa, pensavo stavi per sì, sì, ha chiuso. No, stavo pensando, no, prima ho parlato con Alberto D'Amico prima di venire qua, il quale è malato appunto e quindi si è dispiaciuto molto, però aveva una domanda, gli ho chiesto ma avevi qualcosa da dire, e lui dice sì, c'ha una lui dice sempre domande stupide, però insomma le domande stupide di Alberto invece aprono sempre invece a cose molto interessanti, e lui diceva ma perché, avrei voluto chiedervi perché la scrittura è arrivata dopo la pittura a disgregare il significato, perlomeno il sé, oppure la forma, no? E quindi io gli ho detto, dico, guarda che non è che è nata la scrittura semiche, non sono nate appunto, come hai detto già te, negli anni 90, perché lì è stato coniato il termine, poi appunto invece in realtà appunto abbiamo visto che ci stanno molti pregressi, però sono andata a cercarmi invece un'affermazione di Dubuffet che nel 1967, allora Dubuffet è questo grande artista svizzero-francese, che praticamente si è occupato alla ricerca appunto della liberazione dall'asfissiante cultura, è andato a cercare e a collezionare come primo, per primo praticamente anche opere di outsider, e quindi cercando appunto fuori dagli schemi della tradizione. E quindi nel 67 Dubuffet ha dichiarato che lo scrittore che possiede come unica risorsa il vocabolario, ossia un materiale che è prodotto della cultura, avrà molte più difficoltà del pittore a liberarsene. Il pittore infatti può modificare i suoi segni all'infinito, inventandone di nuovi. Per liberarsi dalla cultura e riprendere vigore, il pensiero dovrebbe riuscire ad affrancarsi dal vocabolario. Quindi il vocabolario è questa grande pietra miliare, diciamo così, che poi deve essere combattuta. Che però poi in realtà le scritture asemiche hanno anche un'origine in tutta la ricerca sulla scrittura vera e propria, prima di tutto sulla rottura della scrittura lineare, no? E poi su tutte le evoluzioni fatte nel dadaismo oppure nel futurismo, quindi la frammentazione del linguaggio che incomincia a perdere effettivamente la sua conformazione di scrittura lineare, ma che poi incomincia invece ad avere come aspetto molto importante quello visivo, e quindi è lì che poi nasce un po' il nucleo, no? E c'è stato un grande dibattito, Marco chiaramente è un grande esperto e quindi lo sa meglio di tutti, ma appunto cosa, come definire la scrittura semica, scrittura astratta? Ma insomma io sono più propensa in realtà a parlare di opera concettuale, perché poi è un'operazione appunto sul linguaggio ma anche su una certa impostazione, per cui credo anche che poi le categorie forse possono anche essere un po' abbattute in questo campo. Però effettivamente ci sta, diciamo così, una certa distanza temporale tra la vera, diciamo, la rottura della forma tra la pittura, cioè tra l'arte figurativa, che aveva avuto più strumenti probabilmente per mettere in crisi tutto quanto, piuttosto che la scrittura, perché è più radicata appunto su quel senso della scrittura come trasmissione di un potere culturale. È lì che c'è il nucleo fondamentale. La pittura si muove su altri fronti. Non so cosa ne pensate. Tra l'altro c'è proprio una cosa che ha fatto molto piacere a Fabrizio e me, è stata la grande liberalità con cui per la copertina del libro Asemix, Senso senza significato, il Museo Paul Klee di Berna ci ha concesso liberamente l'uso di una scrittura del 1933, se non sbaglio, certo, di Paul Klee, che appunto la definisce abstracte Schrift, sì, sì, quindi scrittura astratta. Una cartolina con quelle immagini presa a Berna, è bellissima quell'opera. E infatti sì, Paul Klee è stato un maestro. Beh, tanti scrittori. Sì, ma Klee ha proprio lavorato molto sul linguaggio, sì, proprio anche sulle lettere, no? Esatto, quindi c'è proprio, sì, tutta una connessione molto forte. E volevo fare un'altra ultima piccola riflessione sul camminare, la poesia, fare poesia, camminare e contenere già il discorso sulle pietre, che appunto nella lettura di Careri, questo diciamo fondatore di questo stalker, questo gruppo stalker, che sono degli architetti che vanno in giro a fare queste passeggiate alla deriva, insomma in qualche modo a cercare dei luoghi luoghi vuoti, no, all'interno delle strutture urbanistiche eccetera, e lui fa tutta un'analisi sul camminare, e appunto un incipit di questo suo libro, di questo suo scritto, appunto dice che nel camminare c'è già il menhir, c'è già la pietra primordiale in qualche modo, quindi cita anche invece tutti i poeti che, ad esempio Dante, ma altri, che hanno parlato del camminare come l'incedere dei passi con un ritmo come quello della poesia. E poi ci sono i grandi scrittori, no? Walzer, Sebald, Benjamin pure, ma insomma tanti, tanti scrittori che hanno messo in connessione la scrittura poetica con il passo. E questo mi sembra molto interessante e molto coerente anche col discorso del raccogliere, no? Durante queste passeggiate. Tutti scrittori peraltro abbastanza tendenzialmente anarchici, comunque abbastanza rivoluzionari. Decisamente. Nel loro posso rapporto. Fare una domanda? Come no? Se non interrompo nessuno. Perché io, guardando i segni asemici, o a semantici che sia, ho sempre pensato a un gesto di tipo plastico, naturalmente, prima c'è una plasticità della scrittura, no? Prima di tutto. E questa plasticità della scrittura che naturalmente mi porta al gesto prima ancora che alla forma ottica, no? Infatti giustamente Silvia Boldrini ricordava questo bellissimo libro di Mendelssohn, dove poi tra l'altro è implicito il fatto che quando leggiamo non vediamo proprio niente, tutto sommato, no? È un po' la scrittura semica, è qualcosa che ci mostra il fatto che non vediamo niente, che non, proprio non vediamo nulla. Allora questo non vedere nulla mi fa venire in mente, visto che poi Marco ha messo Klee, appunto, no? Che è un grande estimatore della pareidolia, no? Sì. Appunto. E in fondo questa scrittura semica ricorda questo blocco psicologico, al contrario forse, no? Come se fosse una pareidolia zoppa oppure modesta, non so, oppure l'inverso di questa stessa capacità di riconoscere immagini dentro un caos che non è stato volontariamente ridotto a immagine. No, credo, il diario lo raccontava così, no? Questo fatto di poter scalfire, far emergere da uno spazio caotico un segno riconoscibile che in qualche modo si mostrasse come immagine, no? E il fatto che non è possibile fare questo, cioè non è visibile come parola, in fondo sembra il contrario di un riconoscimento idolatrico. Volevo anche dire, giusto così, però tutto sommato c'è anche una misura più antica di immaginare il segno come non portatore di significato. E già Aristotele lo diceva quando parlava di non apofantico, cioè di due tipi di segni, uno sul quale si può dare il giudizio e l'altro su cui non si può dare giudizio. E tutto sommato lui diceva, mi pare parlasse della preghiera, dell'urlo, addirittura del comando, per dire di Giuseppe ciò che diceva. E tutto sommato il fatto che l'organizzazione della parola sia, come tu Marco dicevi, priva qualche volta di significato, sta già nell'antichità, cioè di tutta una serie di azioni con cui noi crediamo di vedere attraverso il linguaggio, invece non facciamo che rimandare il giudizio a un altrove che non verrà mai. Io non so se questo è consolante oppure... quindi non so, mi chiedevo, poi ho parlato tanto, ma in realtà la mia era veramente una domanda, no? In che misura è importante l'interruzione più che il godimento dell'atto plastico, cioè quanto fa senso, quanto dà goduria il fatto che tu stai per perpetrare un atto di significato e invece questo ti viene interrotto, no? Ti viene negato. Probabilmente è proprio questo. Cioè il proseguimento del crinale che fa sì che l'equilibrio non si trovi mai, e che c'è una frase di Kafka che dice sono su una barca, temere sempre di cadere e reggersi ancora, soltanto questo è amore. Cioè sostanzialmente, no, quest'idea dell'oscillazione, del guardare qualche cosa che sembrerebbe fisso da una situazione che è sicuramente di oscillazione, e questa idea del proseguimento di una, così, di una situazione di bilico, credo che rappresenti una delle ragioni di fascino della scrittura asemica, anche perché poi a volte anche qualcosa a che vedere con la... oltre che con la fuga dalla necessità, cioè noi ricordiamo per esempio il fatto che non è che noi leggiamo una cosa o che se vediamo una scritta la leggiamo, è che non possiamo non leggerla. Cioè se è scritto nella nostra lingua è impossibile che noi riusciamo a staccarci da... E quindi è una, di fatto una sorta di, Flaiano direbbe del cupolone di San Pietro, un casco a vite. Anche se davanti calcato. A quelle porte tira, spingi, tira, non ci azzecchi mai, anche se c'è scritto, no? Non azzecchi mai il verso. Sì. No, questa cosa del che non puoi non leggere, no? È come non puoi non sentire, no? Puoi chiudere gli occhi e non vedere, quindi anche non leggere, però non puoi non sentire. Ma a proposito del... mi viene in mente un aneddoto ben noto, ma lo ritiro fuori. Gli impressionisti, quando hanno cominciato a esporre negli anni 70 dell'Ottocento, alcuni critici, uno in particolare, che si chiama Leroy, scrisse, ma che cosa... no, aspetta, non mi ricordo esattamente la frase... non che cosa vuol dire, ma proprio che cosa vediamo, nel senso che non riusciva lui e tutta la cultura del periodo a vedere che quell'oggetto dipinto era un albero, una facciata di una chiesa, il covone di paglia, proprio non riuscivano a vederlo, no? Questo si ricollega un po'. Poi però c'è stato lo scatto di qualcuno che è riuscito a vedere e ha spiegato come si guarda quel tipo di rappresentazione e ne è nata insomma tutta una serie di cose. Adesso non per esaltare gli impressionisti che a me tra l'altro stanno pure un po' antipatici alla fine, però questa cosa effettivamente in questo sono stati una rottura, no? Il dipingere delle cose che l'occhio in generale non riusciva a decodificare, no? Non riusciva a leggere e quindi per cui insomma ci sono molti esempi di cose che ci portano, però mi viene in mente anche un'altra cosa, però qui poi mi fermo perché oggi noi conserviamo, scriviamo, teniamo in memoria quasi tutto in maniera immateriale, no? Perché lo strumento che usiamo, che ci è stato imposto, che noi riusciamo a non avere, che ci piace o così, è appunto il digitale, l'internet. E anche questo in qualche modo lo collegherei all'impossibilità di non leggere, all'impossibilità di non ascoltare, all'impossibilità appunto al quella parola che dicevi tu, no? L'obbligatorietà. L'ordine, il comando. Sì, il comando, no? E mi pare che, vabbè, questo insomma non c'è niente a che fare con la mostra, però mi veniva questa considerazione. Ci chiama dentro tante questioni la scrittura semica e questa mostra in particolare. Però ecco, lasciamo anche aperta, sì. Aperto lo spazio alle domande, se ce ne sono. Se no possiamo anche sciogliere le dighe e andare a vedere la mostra con un nuovo ringraziamento speciale. Ho omesso di dirlo, mea culpa, a Alberto D'Amico, perché è merito suo anche la disposizione degli oggetti. Quindi questa impressione che si ha arrivando di questa... non anticipo nulla, adesso l'avrete appunto vedendola o rivedendola, si deve anche, oltre che alla maestria di Fabrizio Rossi, anche allo sguardo, perché ha fatto tutto in pochi istanti. Alberto è riuscito a trovare una disposizione, ha allestito sì. La mostra, e di questo dobbiamo essergli grati, così come siamo grati ovviamente a Fabrizio e a Claudia Damiani per il libro, a Capirlo, Silvia Berlini e Giuseppe Carrera. Grazie.